semplice come il fiore in cima al monte. Eri limpida come l'acqua della fonte. Per questo io t'amai, per questo forse or non t'amo più, e più non ti chiamai la mia bambina dal vestito blu. Non hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allora, legandoti al mio cuor. Non l'hai più, non l'hai più, non hai più il cuor che avevi tu, quel semplice tesor che mi piaceva allor. Non l'hai più, non l'hai più. Oggi adori le toilette complicate, cappellini strampalati e rimpazziti, scollature provocanti e raffinate, e le adori sol per far dispetto a me. Non l'hai più le trecce fin qua giù che io baciavo allor con forte nato ardor. Non l'hai più, non l'hai più, non l'hai più, non l'hai più, non l'hai più la veste a fiori blu che mi piaceva allor, legando. Non l'hai più, io tesoro.